Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Wakey, wakey, rise and shine, it's on again, off again, on again. Watch me fall like dominoes in pretty patterns, fingers in the blackbird pie. I'm tingling, tingling, tingling. It's what you feel, not what you are to, what you are to. Reasonable and sensible, different than the cup. I guess I'm stuck, stuck, stuck. We thought you had it, you were not. No, no, for no real reason. Squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow, take a bow, take a bow. It's what you feel now, what you are to, what you are to. The elephant that's in the room is tumbling, tumbling, tumbling. And duplicate, and duplicate, and plastic bags. And duplicate, and triplicate. There from the neck up, I guess I'm stuck, stuck. Stuck with all your head in, but no, no, no. Exactly where do you get up? Is enough, is enough. I love you, but enough is enough. No, and I stuck. There's no real reason. Manolo il gitano aprì gli occhi, guardò la debole luce che filtrava dalle fessure della baracca e si alzò, cercando di non fare rumore. Non aveva bisogno di vestirsi, perché dormiva vestito. La giacca arancione che gli aveva regalato l'anno prima Agostinho da Silva, detto Franz il tedesco, domatore di leoni sdentati del Circolo Maravillas, ormai gli serviva da vestito e da pigiama. Nella flebile luce dell'alba cercò a tentoni i sandali trasformati in ciabatte che usava come calzature. Li trovò e li infilò. Conosceva la baracca a memoria e poteva muoversi nella semioscurità rispettando l'esatta geografia dei miseri mobili che la arredavano. Avanzò tranquillo verso la porta e in quel momento il suo piede destro urtò contro il lume a petrolio che stava sul pavimento. «Merda di donna!» disse fra i denti Manolo il gitano. Era sua moglie, che la sera prima aveva voluto lasciare il lume a petrolio accanto alla sua branda, con il pretesto che le tenebre le davano gli incubi e che sognava i suoi morti. Con il lume acceso, basso basso, diceva lei, i fantasmi dei suoi morti non avevano il coraggio di visitarla e la lasciavano dormire in pace. Questo era l'incipit di La testa perduta di Damasceno Monteiro, di Antonio Tabucchi. Tiempo. la seconda parte di Eclettica, che è iniziata da qualche minuto, ed è la voce di Giulio Caperdoni, quella che state sentendo tutti i giorni fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM, altrimenti disponibile in podcasting all'orario che preferite. Tutti i dettagli su myspace.com/eclettica, e poi se volete un contatto diretto, giulio@radiorockfm.com, quello che vi garantisce anche l'appartenenza, nel caso diate indicazioni in questo senso, alla lista nera, per ricevere direttamente nella vostra casella di posta playlist settimana per settimana. Quest'oggi abbiamo aperto con un disco di cui si è detto, scritto tantissimo, quindi io non vado a dirvi nient'altro di più se non che vi siete ascoltati Faust Harp dall'ultimo dei Radiohead. Poi è stata la volta di Molteni con Felce, un disco che verrà portato anche in giro dal vivo, un set in cui Molteni sarà affiancato dalla chitarra di Carmelo Pipitone dei Marta sui Tubi, un EP mixato a Göteborg in Svezia, Io non sono come te, dal quale ho estratto il brano Felce. Ed ora figlio di cotanto padre, lui si chiama Liam Finn, suo padre si chiama Neil Finn, suo padre fa ancora musica, l'ha fatta per anni con gli Split Ends e con i Crowded House, invece Liam Finn sta portando avanti una carriera solista che trova spazio in Eclettica con il brano dal titolo Second Chance. Oh, I remember when this was all farmland as far as the eye could see. Old man Peabody owned all of this. He had this crazy idea about breeding pine trees. Il primo volatile arrivò un giovedì di fine giugno, all'ora del vespro, quando tutti i frati erano in cappella per la funzione. Fra Giovanni da Fiesole, dentro di sé, chiamava ancora se stesso Guidolino, che era il suo nome che aveva lasciato nel mondo per il chiostro. Si trovava nell'orto per raccogliere le cipolle, era il compito suo, perché abbandonando il mondo non aveva voluto abbandonare il mestiere di suo padre Pietro, che era ortolano, e nell'orto di San Marco coltivava pomidori, zucchine e cipolle. Questo era l'incipit dei volatili del Beato Angelico di Antonio Tabucchi. I want you to know. Come to the light. You think it's all right. State ascoltando gli sprazzi cinematografici di qua e di là, estratti da una trilogia che ci terrà compagnia anche nelle prossime settimane, come state ascoltando anche le parole di Antonio Tabucchi, però i suoi incipit si chiudono quest'oggi, da domani avremo un altro autore. State ascoltando come sempre tanta musica, tanta nuova musica, visto che siamo alla prima settimana della stagione numero 14. Per esempio ci siamo ascoltati qualche minuto fa da Copenaghen i Figurines con un brano diverso da quelli già passati in Eclettica, The Air We Breathe, e questo è il titolo del pezzo, per poi arrivare ad una cover dei Grizzly Bear, ebbene sì, e penso che ci sia stato anche qualcuno all'ascolto che l'abbia riconosciuta, da parte dei canadesi di Toronto, per la precisione Born Ruffians, Era Knife, il pezzo che si è appena chiuso. Ed ora Verona, Canadians è il nome della band che ha inciso A Sky With No Stars per la Ghost Records, dal quale vado ad estrarre Summer Teenage Girl. Holiday in a summer place, drinking beer with you 5 years ago. Discovering new vibrations again when it was Doc, you don't just walk into a store and buy plutonium. Did you rip that off? Of course, from a group of Libyan nationalists. They wanted me to build them a bomb, so I took their plutonium and in turn gave them a shiny bomb casing full of used pinball machine parts. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 1, volume numero 2, indice, I Like Trains, Moon and Moon, The National, Ungdomsskulen, Young Sensation, Radiohead, Molteni, Liam Finn, Figurines, Born Ruffians, Canadians, e per chiudere vi siete appena ascoltati Tallycraft da Seattle, l'album era Every Scene Needs a Center, e il brano era The Punks Are Writing Love Songs. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.